Benvenuti. Oggi ci addentriamo in una realtà affascinante, quella di Capoverde. La nostra guida è un numero speciale della rivista Lares, curato da Martina Giuffrè e Giacomo Pozzi. Il titolo è già un programma. Nessuna isola è un'isola. Esploreremo proprio questo: insularità, identità, cambiamenti sociali laggiù. Sì, e guarda, è molto interessante notare una cosa fin da subito. Nel periodo coloniale portoghese, per capire davvero la cultura capoverdiana, più che agli studi antropologici che erano pochi e, diciamolo, un po' viziati, bisognava guardare alla letteratura, proprio quella scritta dagli intellettuali capoverdiani. Ah, davvero? Eh sì. Pensa al movimento Claridade, negli anni 30. Fondamentale. Loro hanno iniziato a tracciare una specificità culturale locale distaccandosi dai modelli imposti. Incredibile, la letteratura che sopperisce in un certo senso all'antropologia ufficiale. Questo la dice lunga sulla prospettiva coloniale, no? E poi, con l'indipendenza nel 75, cosa succede a questa ricerca d'identità? Beh, lì cambia tutto. C'è proprio uno sforzo consapevole, politico direi, per affermare la capoverdinità. Un concetto che cerca di, come dire, tenere insieme l'unicità creola, ma recuperando anche le radici africane. Radici che il colonialismo aveva spesso negato o sminuito. Considerava Capoverde una specie di territorio a metà, giusto? Né Africa né Europa. Esattamente, una zona grigia. E lo stesso Amilcar Cabral, leader dell'indipendenza, sottolineò quanto fossero cruciali gli studi culturali per costruire la nuova nazione. Quindi un'identità che si rivendica, non più solo subita, forte. E come si lega questo a un altro aspetto fondamentale di Capoverde, la mobilità? E si lega tantissimo. La mobilità è, diciamo, il filo conduttore. Capoverde è sempre stato un crocevia, tragicamente anche per la tratta degli schiavi, non dimentichiamolo. Poi è diventata terra di emigrazione massiccia. Questo ha generato, beh, un campo di studi enorme sulla diaspora capoverdiana nel mondo. La diaspora, Stati Uniti, Olanda, Portogallo, Italia anche. Certo, in Italia, per esempio, già dagli anni Ottanta, studiosi come Alberto Sobrero hanno fatto lavori pionieristici. Si inizia a parlare di transnazionalismo. Transnazionalismo, cioè come le famiglie, le economie, le identità stesse si estendono oltre i confini dell'arcipelago. Proprio così. Le vite delle persone si giocano attraverso i confini, non solo dentro. E la cosa forse più affascinante qui è la fluidità dell'identità creola. È costantemente rinegoziata, sai, tra il sentirsi parte del luogo d'origine e le influenze globali. Non è mai qualcosa di fisso, è un processo. E queste dinamiche storiche, questi processi, come si vedono oggi nelle ricerche più recenti come quelle in Lares? Si vedono e come. Si collegano direttamente alle sfide attuali. Pensa ad esempio all'impatto del turismo. È diventato un motore economico pazzesco, quasi un quarto del PIL prima della pandemia. Wow! Porta sviluppo, lavoro, certo, ma apre anche domande grosse sull'autenticità culturale, sulla sostenibilità. Questa globalizzazione rafforza o rischia di annacquare quella specificità, quella capoverdianità? Un bel dilemma. E immagino si leghi anche alla crescita delle città, tipo Praia Mindelo. Assolutamente, crescono a dismisura. E gli studi in Lares mettono in luce proprio questa complessità urbana. Da un lato ci sono problemi seri, marginalità, a volte violenza giovanile, il fenomeno delle gang, ma dall'altro c'è una vitalità culturale incredibile. Pensa alla musica rap, all'artigianato urbano che si reinventa, all'attivismo. C'è molto fermento. E i giovani, in questo quadro di cambiamenti così rapidi, come vivono la socialità, il passaggio all'età adulta? Emergono difficoltà, non c'è dubbio. L'incertezza economica, lavorativa, pesa. Però, allo stesso tempo, resistono forme potentissime di solidarietà. Una cosa bellissima è la pratica del Juntamon. Juntamon, cosa significa? Letteralmente è unire le mani. È una forma tradizionale di mutuo soccorso, di aiuto reciproco nella comunità. Ed è ancora viva, praticata. Mostra una resilienza sociale forte. Affascinante questa persistenza dei legami. Allora, mettendo insieme i pezzi, storia coloniale, diaspora, globalizzazione che entra prepotente, città che cambiano, tradizioni che resistono. Che quadro ne esce? Ne esce il quadro di un luogo che è tutto tranne che isolato. Capoverde è proprio un caso studio eccezionale, direi. La sua storia, la sua identità sono fatte di movimento, di incontri, di scambi continui con l'esterno. L'identità non è una cosa data, ma un farsi continuo. Quindi quell'idea iniziale «Nessuna isola è un'isola» non è solo un titolo evocativo, è proprio la chiave di lettura. Esattamente. Mette in discussione l'idea stessa di insularità come chiusura. E forse ecco il pensiero che possiamo portarci via è questo. L'esperienza di Capoverde ci sfida un po' a ripensare cosa vuol dire l'isola. Ci fa vedere come le culture nascono e si trasformino proprio grazie alle connessioni, ai flussi. Flussi che sfumano i confini netti tra locale e globale, tra noi e altri. Insomma, ci suggerisce che forse davvero nessun luogo è mai completamente un'isola separata dal resto del mondo.